Ciao a tutti e bentrovati a questa nuova puntata di Soul Time. Quindi iniziamo subito con la musica e iniziamo nel segno dei mercatini. Voglio iniziare con i primi 3-4 brani, con un po' di dischi che ho trovato in giro in questi ultimi giorni. Iniziamo con un brano di Same and Dave, da questo Greatest Hits su etichetta Showcase del 1985, e ci andiamo ad ascoltare questo brano del duo formato da Samuel David Moore e David Prater, che hanno registrato e cantato insieme dal 1961 al 1981, in cui Sam Moore era la voce tenore mentre Dave Prater era il baritono. Ci andiamo ad ascoltare questo grandissimo pezzo che si intitola You Don't Know What You Mean To Be, Same and Deep. Today, yeah, I got a song I wanna sing. Yeah, and if Lord wrote the song for me, yes, he did. Tell her well. He told me to tell you about my baby. Well, baby, yeah. I gotta sing the song. Say what he said. Baby, don't you worry about your man. I'll be coming home just as soon as I can. I got love in the palm of my hand. Sistemiamo un attimo, spero scompaiano. Quindi proseguiamo con la musica e proseguiamo con quest'altro vinile trovato al mercatino, con una figura leggendaria che abbiamo già ascoltato qui al Soul Time. La voce è quella del grandissimo Isaac Hayes, è un musicista, doppiatore, attore e cantante statunitense. Il nome di Isaac Hayes è legato soprattutto al tema di Shaft, Theme from the Shaft, brano che ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100 per 2 settimane e che l'ha reso universalmente celebre, brano per il quale ha vinto anche un premio Oscar nel 1972 per la miglior canzone originale. Isaac Hayes è stato uno degli artisti più importanti dell'etichetta discografica di musica soul Stax Records, che negli anni 60 e 70 era la principale antagonista della Motown nel campo della black music e nel nostro caso della musica soul. Abbiamo detto quindi di Them From Shaft, noi invece ci andiamo ad ascoltare questo brano su etichetta appunto Stax, stampata con una R cerchiata nel 1980 su Stax Records, questo brano che si intitola Them From The Man, Isaac Hayes. Con Them From The Man. Quindi passiamo da una voce fondamentale della musica soul come quella di Isaac Hayes e da un'etichetta fondamentale come la Stax Records ad un'altra voce fondamentale ed a un'altra etichetta fondamentale come la Motown, e la voce in questione è quella di Stevie Wonder. Rimaniamo sempre in ambito di acquisti recenti, di mercatini, e ci andiamo ad ascoltare questo brano del 1968 registrato proprio da Stevie Wonder per l'etichetta Tamla Motown, un brano scritto da Stevie Wonder stesso, Sylvia Moy ed Henry Cosby, è un brano estratto dall'album For Once in My Life. Il brano è Shoo Be Doo We Do That Day, Stevie Wonder. Questo era Stevie Wonder. Proseguiamo e rimaniamo in casa Tamla Motown con i Temptation. I Temptation sono un gruppo musicale vocale composto da 5 cantanti statunitensi che, rifacendosi alla musica gospel, hanno fondato il cosiddetto genere Detroit Sound, il sound creato proprio dall'etichetta discografica Motown Records di Detroit, ad esempio la stessa delle Supremes di Diana Ross e tanti altri, con una fusione di R&B e rock psichedelico californiano. Quindi ci ascoltiamo questo brano dei Temptation, estratto dal vinile Get Ready del 1973, e ci ascoltiamo proprio il brano che ha dato il titolo all'album, Get Ready The Temptation. Outside, so deep, I, oh, look The Temptation con Get Ready. Quindi proseguiamo con la musica e ci andiamo ad ascoltare Bobby Parris. Bobby Parris è un cantante nato e cresciuto a New York, figlio di una famiglia portoricana, ed ha iniziato a cantare con un gruppo doo-wop chiamato The Golden Key nel 1956. Successivamente ha firmato per l'etichetta Indingo, pubblicando il suo primo album nel 1960. Ci andiamo ad ascoltare questo pezzone tipicamente Northern Soul che si intitola Night Hole. Night Howl. Proseguiamo con una cantante che si chiama Vicky Barnes con un gran pezzo che si intitola Country Girls. Questo pezzo appunto è cantata da Vicky Anderson, conosciuta anche come Vicky Barnes, una cantante americana soul, conosciuta ai più per essere una delle coriste di James Brown, ma ha registrato anche un discreto numero di singoli come cantante solista. Quindi ci ascoltiamo questo pezzone di Vicky Barnes che si intitola Country Girl. Keep talking. questa era Vicky Barnes con Country Girl. Quindi il prossimo pezzo già pronto è quello di Chubby Checker. Chubby Checker è il nome d'arte di Ernest Evans, un cantautore statunitense famoso per aver dato origine al twist. È esattamente lui quello che ha lanciato la canzone Twist Again, eccetera, non la so cantare bene, ma insomma il suo brano più famoso è proprio Let's Twist Again. Iniziò come cantante di rock and roll, ma nel 1960 lanciò un pezzo di rock da ritmo nuovo, The Twist, che raggiunse subito un'enorme notorietà. Poi l'anno successivo, nel 1961, lanciò appunto la sua hit più famosa, Let's Twist Again. Invece ci ascoltiamo invece del suo pezzo Twist, ci ascoltiamo un gran pezzo soul, più che altro della scena Northern Soul, molto molto conosciuto. Ci ascoltiamo You Just Don't Know, tra parentesi, What You Did To Me, lui è Chubby Checker. Chubby Checker con You Just Don't Know What You Did To Me. Il prossimo pezzo lo abbiamo probabilmente già ascoltato nelle puntate passate, non ricordo con esattezza, comunque è Angel Baby di Daryl Banks, però ho scovato questa versione, questa cover che non conoscevo, di un gruppo direi decisamente oscuro che si chiama 3 e mezzo, e ci ascoltiamo Angel Baby. I'm gonna keep you satisfied, so you will never Questa era Angel Baby con 3 dei 3 e mezzo. Proseguiamo la selezione con un brano di Evi Sands. Evi Sands è una figura decisamente interessante, è una cantante, compositrice e musicista americana. La sua carriera si estende su più di 50 anni di storia. Ha iniziato la sua carriera come adolescente già dalla metà degli anni 60 e dopo un inizio un po' complicato nel 1969 raggiunge la cima delle classifiche statunitensi, prima di ritirarsi soltanto 10 anni dopo per concentrarsi principalmente sulla scrittura e la produzione discografica. Quindi poi improvvisamente nel 1990 è ritornata sulle scene e Evi Sands continua tuttora a scrivere e ad esibirsi in pubblico. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo gran pezzo di Evi Sands che si intitola Picture Me Gone, Evi Sands. So baby, when you look me over, before you tell me that it's over. Heavy Sands con Picture Me Gone. Siamo sempre su Soul Time e proseguiamo la selezione con un personaggio decisamente interessante che ha in comune con Heavy Sands la, possiamo definirla così, la sospensione, l'assenza dalle scene per lungo tempo. La figura in questione è quella di Terry Carrier, all'anagrafe Terence Orlando Carrier, nato a Chicago nel 1945. E lì scomparso nel 2012. Terry Carrier da ragazzino iniziò subito da ragazzino a suonare il pianoforte ed era amico di Curtis Mayfield, Major Lance e Jerry Butler, quindi aveva proprio degli amici così che di musica non ci capivano niente. Quindi appunto suonando il pianoforte i suoi primi brani erano di genere definibile doo-wop. Nel 1962 fece un provino per la Chess Records, importantissima etichetta discografica, e registrò subito il suo singolo di debutto Look At Me Now. Quindi a un certo punto della sua vita Keller continuò a esibirsi in tournée fino al 1983, quando si ritirò dalle scene per dedicarsi agli studi di programmazione informatica e venne assunto dalla Università di Chicago e frequentò le scuole serali al college per arrivare poi a laurearsi anche in sociologia. E il suo nome rimase nell'oblio fino alla fine degli anni 80, quando alcuni DJ britannici riscoprirono le sue vecchie canzoni e iniziarono a suonarle nei club. Il capo della Acid Jazz Records, Eddie Piller, ripubblicò un suo singolo poco noto nel 1983, I Don't Want to See Myself, e lo convinse a tornare a suonare nei club della Gran Bretagna. Dal 1991 Keller iniziò a sfruttare i suoi periodi di ferie dal lavoro per suonare ai concerti. Alla fine degli anni 90 fece il suo ritorno definitivo sulla scena musicale, collaborando in diversi album, tipo l'EP di Bell Thornton ed altri, e addirittura si aggiudicò un premio delle Nazioni Unite, tipo per il miglior artista che ha contribuito nella pace del mondo o qualcosa del genere. La cosa curiosa è che fino ad allora i suoi colleghi alla University of Chicago non sapevano nulla della sua parallela carriera da musicista, ma dopo la conquista del premio delle Nazioni Unite la notizia della sua doppia vita divenne di pubblico dominio ed egli venne licenziato. Quindi questa è un po' la storia curiosa di questo gran talento di Terry Carrier, e quindi direi di andarci a ascoltare un suo brano che si intitola Ordinary Joe. Lui è appunto Terry Carrier. Trying to indicate my state of mind, I turn you on, I tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it. A little rhythm for your spirit, oh, but that's what it's for. Come on in, here's the door. And I've seen a spell sky. He thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. Now here's a mystery, and maybe you can help to make it clear to me. When you're fast asleep, then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears, I can't conceal it. And all of your prayers may not reveal it. You got soul so you can feel it. And when you make the scene, well, you know what I mean. Hey, I've seen a spiral. just a little bit freer than I. Take your secrets underground. Now politicians are trying to speech you. Mad color watchers are trying to teach you. Very few will really try to reach you. If you're lost in a stack, well, that's okay. Come on, black. Now I'd be the last to deny that I'm just an average guy. And don't you know each little bird in the sky is just a little bit freer than I. Hey, ordinary Joe, although they say you're just a lazy so-and-so, what they think is real is nothing but an animated puppet show. So don't let time and space confuse you, and don't let name and form abuse you. What do you think, Joe? You can see how they run. Oh, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. And don't you know he thinks it's easy to fly? He's just a little bit freer than I. Ok, rieccoci in studio. Quindi dopo questo brano di Terry Kellier, Ordinary Joe, decisamente ricco di influenze jazz, proseguiamo con un grande classico del Northern Soul, un brano di Joy Lovejoy che si intitola In Orbit, un brano del 1967 pubblicato su etichetta Checker, sotto etichetta della Chess Music, proprio l'etichetta con cui iniziò Terry Kellier la propria carriera. Quindi ci ascoltiamo In Orbit, Joy Lovejoy, 1967. Oh, Joy con In Orbit. Ahimè, ahimè, la puntata è praticamente conclusa, ci rimane il tempo di un ultimo brano, Il tempo vola su Radio Wombat, e l'ultimo brano che vi propongo per questa sera è di Patti and Emblems, un gruppo americano formatosi a Camden nel New Jersey, formato da Patti Russell, Eddie Watts, Vance Walker e Alexander Wilds. Tutti i componenti del gruppo rimasero insieme per pochi anni, soltanto fino al 1967, registrando pochi singoli. Gli altri componenti del gruppo rimasero tutti in attività per decenni, eccetto Patti Russell, che si ritirò fin da subito, quindi proprio la voce principale. Vi saluto con quest'ultimo brano, Patti and Emblems, che si intitola I'm Gonna Love You a Long Time, e noi ci risentiamo la settimana prossima su Radio Wombat, mercoledì alle 19. Ciao a tutti, alla prossima puntata.